Sono le 7:30 minuti primi, quasi 31. If you have a problem, avete problemi? Oggi siamo fuori coi minuti, ragazzi. Ne avamo. Buongiorno dall'Ariele, Spadino, Freak, Isaac Rizzi, la redazione, la squadra di Pane, Burro, Rock and Roll. Salutiamo il patentato 853 che chiede un saluto al Rosso di Sera che stasera chiude i battenti, provincia di Pisa. Saluti a Lisa, buongiorno bellissimi, scrive. Mi riferisco a tutti e due, ovviamente, però preferisco Antoni. Sono felicissima, a parte iniziare la mattinata con voi e poi della vostra presenza col mitico De Riu alla Flog il 23 febbraio. Vi è piaciuta Firenze, eh? Sì, beh, sono anni che veniamo a Firenze, è sempre bella. Giustamente Yuri, colazionista frammentato da Firenze, mi fa notare, perdonami Marielle, ma per qualche minuto di ritardo non dovresti farti problemi. Ricorda, non frapporre alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. Hai ragione Yuri, intanto vi siete accorti, mi è scappata la nuova rubrica medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Così, in anteprima a voi della prima mezz'ora, hai visto? Ho sempre un occhio di riguardo per i primini. Quei mattacchioni allegrotti dei Radiohead mi pubblicano questo album che ha tanto fatto parlare di sé, In Rainbow. Primo estratto che abbiamo il piacere di passare all'interno della nostra Pane, Burro, Rock and Roll. Jigsaw Falling into Pieces, più o meno. Loro comunque sono i Radiohead. Oh, beh, vai! Una bella ventata di buon umore di prima mattina, va sempre bene, eh? Per questa seconda parte, che riguarda martedì 29 gennaio, io vorrei proporle, caro DJ Ariele, una sigletta. Vero? Era parecchio tempo che non lo faceva più. La sigletta del nascituro, la sigletta esatto. del compleanno del giorno. E come diceva lei, del compleante. 29 che mi piace un casino. Gennaio 1929 nasceva Elio Petri, mitico regista, sceneggiatore italiano, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Con un Gian Maria Volontè strepitoso. La classe operaia va in paradiso. Ah, sì, grandissimi film. A proposito di film, passiamo a un attore più televisivo del 1945. Auguri di buon compleanno a Tom Selleck, quello sì. di Magnum P.I. con la Ferrari. Esatto. E Tre scapoli e un bebè. Esattamente, insomma, proprio lui. Un bel fusto, diciamo così, che piaceva tantissimo alle donne, è sempre stato molto idolatrato negli States. Ma ci spostiamo dal cinema alla musica. Infatti, perché oggi, il 29 di gennaio, nasceva Tommy Ramone, batterista dei mitici Ramones. Sì, e invece chiudiamo tornando sul cinema. Esatto. E col, il cerchio si chiude. E il cerchio si chiude con la bellissima, con la straordinaria Lei è un Dalida. Debole. Non faccia così. Per Di Lazzaro, naturalmente, sì. Dalida Di Lazzaro, attrice italiana, nacque nel 1953. Ci scusiamo con la signora Di Lazzaro per averlo non rivelato. Dica, non dica l'età, la prego. Infatti, ma ad ogni modo ha un anno più di me. Ecco. Insomma, comunque. La ricordiamo in fenomena? In fenomena, ha ragione lei, Argento fenomena. E disperatamente Giulia, brava, bella. Auguri alla grande Di Lazzaro. Quanti anni ha, scusi? 54. E me, che c'è? Playing, and we just can't find a sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? In a home that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Questo red carpet di violini, i Kiss, versione romantica, che poi gli viene da piangere, gli si scioglie il trucco. Beth, mi si spezza il cuore. Ma vediamo di non perdere di vista i nostri obiettivi. Sono giornate convulse queste di pane, burro e rock and roll, nelle quali i commenti sono tutti là: ma com'è, ma come mi vesto, ma io vengo vestito da Zorro, scrive qualcuno, altro che da indiani e cowboy. Tiziano da Livorno. Stiamo ovviamente accennando al primo raduno surrealista di radioascoltatori e radioascoltatrici di pane, burro e rock and roll. Poi oggi ci abbiamo infilato già una nuova rubrica: medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Ma non perdiamo di vista le vere problematiche che vuole affrontare questo spazio radiofonico, come il precariato. Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti, diceva il nostro Roberto Fricantoni, e non c'è gusto ad essere rockstar spiantate. E allora arrotondiamo. Come? Facendogli fare il babysitter. A chi? A Fricantoni. Buongiorno signor Fricca. Buongiorno dottore. Le lascio Sofia, mi raccomando. Ma stia tranquillo, sono un babysitter diplomato. Allora, Sofia, carina Sofia, allora, stai facendo i compiti? Sì, Fripp, sto facendo inglese. Frick, Sofia, Frick. Comunque, inglese, bene, bene, bene, bene, bene, molto bene. Che cosa devi studiare? Cosa devi fare in inglese? Ci hanno dato una poesia da imparare a memoria, ma mi fa schifo e ne ho imparato un'altra. Ma insomma non si fanno queste cose, si segue il programma. E perché non ti piace? Per favore fammi vedere, eh? Allora, dunque, vediamo un po', è questa? Allora, cirrhosi, cirrhosi are red, violets are blue, so sugar is sweet, and so, so are you. Fa schifo. Beh, non dire così, è carina, la trovi difficile? Dai, ti do una mano con la pronuncia. No, no, non è difficile, Fripp. È che fa schifo e ne ho imparato un'altra. Frick, Sofia. Comunque, non è un problema ammettere che non si riescono a fare le cose. Se si hanno dei problemi, si chiede un aiutino. Dai, ti aiuto. Allora, sentiamo. Sentiamo la tua poesia e vediamo di darti una mano. Vedrò di aiutarti. To be or not to be, that is a question. Whether it is noble in the mind to suffer these lingering hours of a tragic fortune, or to take arms against sea of troubles, and by pausing in them to die, to sleep no more, and by sleep to say we end. Pane burro rock and roll, pane burro rock and roll, mazza che sticata sto programma, raga! Oh, stracu, stracu, stracu. Si chiamano Who e vogliono veramente saperlo. Chi sei tu? Ah, mi è venuta freak. Chi sei tu? In italiano, no? La rifamo? O si fanno solo i Beatles in italiano? La nostra colazione in diretta fino alle 9. Quest'oggi ci siamo mangiati qualche minuto della prima mezz'ora causa traffico veramente ingestibile. E allora perché non sdoganare una nuova rubrica di pane, burro e rock and roll che da mesi stavamo organizzando, stavamo meditando con il nostro tassista di riferimento. Ciao Tino, buona giornata. Ciao Ariel, ciao a tutti. Allora l'idea era questa, visto sì. Che una volta avevamo la rubrica del radioascoltatore che ascoltava le altre radio per la certo. Concorrenza. Grande Andrea 147. Perché non rubare le segnalazioni sul traffico delle altre radio? Mi sembra tipo cioè prendiamo del buono un po' da tutti. Questa potrebbe esatto. Essere una formula vincente. Isoradio dà delle grandi indicazioni sul traffico, perché pane, burro e rock and roll no. Anche, certo. Anche perché poi c'è qualcuno di SMS che è preoccupato. Sì. Fammi ritrovare come si chiama, che diceva no, ma dov'è il eccolo qui, Topone si firma, dov'è l'incidente sulla Milano-Varese? Tra l'altro perdonami, si firma Topone e chiede se Frigo e Rogna sono suoi parenti. Ma chi se dovrebbe dimostrarcelo, però non si è pariti di Frigo e Rogna così facilità. Esatto. E allora Tino, dacci le informazioni sul traffico. Allora Ponti, c'ho anche la sigletta? Ma ce l'hai? Ah, grazie, no, adesso sono arrivato pure in ritardo, Tino. No, non avevo nessuna idea di fare le informazioni sul traffico oggi, ma già. La troveremo. Potremmo mettere sì, viaggiare. Bella, sì, una delle poche canzoni di Battisti che mi piace. E che tra l'altro è molto Isoradio come canzone, quindi potremmo strizzare l'occhio. Vabbè, vai. Dunque, allora, parte ci sono delle segnalazioni di nebbia che potrebbero essere importanti per la sicurezza dei nostri ascoltatori. Bravo, che già ne sono tantissimi. Guarda. Quindi abbiamo nebbia sull'autostrada A11 tra Firenze e Pisa, nella zona di Montecatini. Che uomo che è. Poi abbiamo anche nebbia sulla A1. Tra Orvieto e Magliano Sabina e fra nella zona di Firenze col bivio appunto della Firenze-Pisa, sempre la stessa A11. Ma senti, non è vero che non ci sono più le mezze stagioni? Cos'è sta storia che la nebbia va giù a Firenze e noi no? Io non lo so, non ci vuole più neanche la nebbia forse. È incredibile. Prosegui. Ecco, allora, altra segnalazione importante sono l'area di servizio Angioina Ovest sulla Caserta Salerno, che è chiusa. Vabbè, ma Caserta Salerno non ci sentono. Ma come? Cioè, abbiamo il nostro ascoltatore nella zona di Napoli, hai magari ragione, lui interessa. Vai, vai. E poi anche quelle aree di servizio di Feroni e di Piceno sulla A11 e sulla A14 che non hanno il gas e il GPL, quindi anche occhi ascoltatori, non fate rifornimento. Ecco, poi non arriviamo so se tu lo clou. Sapevi, non so se tu lo sapevi, c'è un grosso incidente nella zona di Castellanza. Eccolo lì. Quindi non so se te ne sei accorto, però attenzione, perché tu andando da quelle parti lì poi magari potresti avere problemi. Sono rimasto dentro 45 minuti. Tra l'altro credo anche che l'uscita di Legnano, anzi l'ingresso di Legnano sia chiuso. Sì, allora l'incidente è proprio fra Castellanza e Lainate, non è specificato esatto. Il punto esatto, sì. No? Quindi mette in crisi tutta la zona, sì, sì, mette sì, in crisi la Varese, mette in crisi anche l'autostrada di Como. Esatto. Quindi lì, tutta quella zona lì è assolutamente da evitare. Restate a Milano e ascoltate Rock FM. Oppure uscite, no, sai a me cosa piace un sacco? Uscire dall'autostrada e guidare verso Milano con il mio navigatore satellitare della mente. Della mente? Sì, perché non c'ho quello vero. Con la mente a Milano si arriva sempre, basta puntare verso di là, prima o poi ci arrivi. Sì, sì, è vero, sì. Hai ragione. Mi sì. Sono trovato in mezzo sì, dai nate, o sulla Varesina o sulla... Esatto. o sulla statale sì, di Trebbione e via. Va bene Tino, tutto a posto allora? Tutto a postissimo, tutto a postissimo. Senti un po', ma domenica a che ora ci troviamo? Dove, come, quando, perché? Ah, vieni al raduno? Da Milano? Sto cercando in tutti i modi. Allora, ieri mi sembra che ci siamo messi d'accordo, fammi trovare l'appunto. L'ho già perso, io l'ho già perso. O no? Piani, eccolo qua, no, l'ho trovato, scusa. Sì. Piani di Celle Ligure alle 14:30. Benissimo. Perché da lì parte il carro. Sì. Abbiamo mezz'ora di preparazione e poi partiamo con la sfilata. Benissimo. Fai il cowboy o l'indiano? Io hai detto l'indiano. Io vero? Faccio l'indiano. Hai già trovato il vestito? No, non ancora veramente. Stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando, esatto. Mi raccomando, più ridicolo possibile, Tino, eh. E farò del mio meglio. A presto, grazie per le segnalazioni. Un abbraccio a tutti, ciao. Che si sappia, radio di servizio. Sì, pane, burro e rock and roll. Ce n'è per tutti. Si chiamavano Soundgarden. Ah, questa mi spezzava il cuore da pischello. Black Hole Sun. Stupum. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Ariel, la chiamo da Milano, Rock FM. Stiamo chiedendo se ascolta la radio. No. Non è solito ascoltarla? No. Sa, noi facciamo una trasmissione dalle 7 alle 9 del mattino, ci sono io e c'è anche Roberto Fricantoni degli Schiantos, forse lo conosce. Conosce, sì, gli Schiantos, mi scusi, il gruppo musicale degli Schiantos? Sì. Che, ringrazio. Beh, niente, volevamo chiederle, proprio implorarle di ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll dalle 7 alle 9 del mattino. Ci ascolti, la radio non deve riprendersi. È troppo. Allora, vuole segnarsi le frequenze? Beh, sono 107,7 comunque. Ok. Se le va, Ci ascolterà? Può darsi. Può darsi. Beh, grazie comunque, grazie per la sua disponibilità. Però gli Schiantos li conosceva. Questo è già tanto. Come? Gli Schiantos però li conosceva o ha mentito? Sì. A lei piace il rock, lei è giovane, vero? È una persona di mezza età, insomma. Vediamo. Grazie, grazie mille. Buona giornata. Pare burro, rock and roll, pare burro, rock and roll, ma